E la voce retorica del bell'imbusto che io vedo senza amarezza mi coinvolge magicamente e per lussuria nelle sue brave braccia aperte. Angeli bianchi e bruni sorvoleranno e il tempo e il ricatto dei vecchi e il ricatto della musica e il luogo di tutta la bellezza se ti vendo il leggero giogo della mia inferma mente tra le due tende degli impossibili cerchi che sì sono stesi tra le nostre anime nell'aria che palpita tra la tua rivolta e la mia che spinge e geme fuori del portone nel solaio aperto alla più profonda tristezza che mi univa ai tuoi sogni. Ricorda le parole scritte sulle mura delle più grandi fortezze degli egiziani. Io sono una che sperimenta con la vita e non può lasciare nessun rivale toccargli il cuore, le membra insaziabili. Io sono una che lascia volentieri la gloria agli altri, ma si rammarica d'essere trattenuta dagli infelici nodi della sua gola. Io sono una fra di tanti voraci come me, ma per Dio io forgerò, se posso, un altro canale al mio bisogno e le mie voglie saranno d'altro stampo. E se sicura trionfo su delle pene, trionfante, penitente, rincorro l'intero perdono e che Dio permetta la mia presuntuosa discordanza con le guide del cielo perlato. Ricorda che io fui tra i più stanchi fra i cavalieri delle nostre pecche, ricorda che tutti noi fummo nati per presentare tutte le stanchezze, ricorda questa mia vita attaccata all'ignoto sorseggiare delle tue pupille, riposa duramente fino alla fine e che candidi siano i tuoi giorni senza riposo.